Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo terminato l'intervista con i Sursum Corda, ci siamo ascoltati anche quest'ultima canzone dalla porta dietro la cascata, si intitola Il Palazzo. E Maurizio, allora seconda parte, secondo round di quella che è la serata di Blu Radio Sera, ancora benvenuti a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Che abbiamo dall'altra parte del capo telefonico? Da Varese, Davide Buffoni, buonasera Davide. Tutti. Come stai? Bene? Sì, grazie. Benissimo. Okay, grazie, ok, stasera presentiamo il nuovo disco di Davide, stavolta da solista, vero Davide? Non più con la band, almeno formalmente. Sì, il secondo disco, questo è solista, ho praticamente l'ho curato io, cioè, ho suonato parecchi strumenti e c'è stato qualche musicista che mi ha dato una mano, insomma, poi qualcuno... sono musicisti comunque che suonano con me dal vivo, però in studio ho lavorato più da solo, insomma, con poi l'aiuto del tecnico in studio che ha registrato, insomma, questo disco. Un CD che si intitola Prices. Price, esatto. Prices. Come mai? Come mai questo titolo? La scelta è stata un po' valutata oppure zacchete, subito pensata? Ma in verità è nata prima la canzone, la canzone intitolata appunto Price, sì. E poi da lì ho scelto questo titolo, mi piaceva il suono della parola, poi insomma la canzone ha un significato per me abbastanza personale, che poi spiegarlo mi è sempre difficile, raccontare un po' le canzoni è sempre difficile, spero sempre che le persone che lo ascoltano mi raccontino che cosa hanno percepito. Che idea si sono fatti loro, insomma, della canzone. Però, insomma, Prices è nata la canzone, poi il titolo, mi piacciono i titoli corti in generale. Piacciono molto quelli, anche se il mio primo ce l'aveva lungo. Che era sì, sì, esattamente. Sì, voleva dire giusto questo, perché in apertura del tuo CD, Davide, c'è sì. Proprio Sleeping When the Birds esatto, Are Singing, che, esatto, è un titolo lungo. È un titolo lunghissimo. Però nel disco, detto sì. Stavolta, voglio un titolo corto. Ah, ok. Ah, sì, giusto, per identificarlo immediatamente. Esatto. È vero. Sì. Sì, no, mi piaceva. Poi comunque credo che sia stata un po' la canzone che ha dato il via a tutto il resto, insomma. Poi sono nati gli altri brani, insomma, è nato un po' tutto da lì, da quel momento, insomma. Dobbiamo sottolineare, Davide, che il tuo primo disco, ucciso nel 2002, ha avuto due nomination come miglior disco italiano da una rivista specializzata del settore, abbastanza famosa, che è l'ultimo Buscadero. Sì. Ma il primo disco era andato su quelle pagine, aveva, nonostante fosse il primo, io tuttora lo considero più un demo. Ah, che un disco facciamo ufficiale. Un demo fatto bene, dai, così. Tiriamola così, dai. Un demo fatto bene alla buona per presentarmi, per poter suonare in giro. Insomma, prima ho suonato in diverse band in passato come chitarrista. Quando ho iniziato a scrivere, poi ho sentito l'esigenza di cantare le mie canzoni e poi comunque avevo bisogno di un prodotto, insomma, finito per poterlo promuovere, insomma, per suonare, ecco. E quindi niente, è stato questo disco che era composto da 5 miei brani e 3 cover. Tre cover che poi, insomma, tra gli appassionati di musica e tra i lettori di questa rivista che ti ho citato, che è Buscadero, c'era una cover di Mellencamp, una di Woody Guthrie, quindi un po' riviste da noi. Per cui insomma aveva preso molto, era piaciuto, poi era insomma un esordiente. Certo, ricordiamo anche la band, Davide, che ti segue sia pure sotto false, non presente nelle note dell'album di adesso. Appunto adesso noi giriamo, siamo in formazione trio, c'è Alberto, il Tio Gazzarata, che è un mio caro amico, soprattutto è nato con, cioè è un amico, ecco, e poi suonavamo già insieme in passato ed è subentrato il bassista che aveva suonato in Screaming Like a Child e tuttora suona con me, sono passati diversi anni. Lui ha contribuito, ha suonato il basso in un brano e ha cantato in una canzone i cori, ha fatto i cori in un brano dell'ultimo disco e lui mi segue da tanto e ora abbiamo un batterista nuovo che si chiama Carlo Ottolini che ha suonato nell'ultimo disco. E in più ci sono degli ospiti, un ragazzo che conoscevo da tempo che suona la steel guitar, strumento difficile da trovare in zona, soprattutto chi lo suona. E niente, poi un sax, un altro ragazzo che ha suonato il sax. Però il maggior lavoro l'abbiamo fatto io e Stefano Lucato, che è a sua volta un produttore, l'ho prodotto io questo artisticamente, lui però, essendo già produttore e un tecnico davvero in gamba, mi ha dato grossi consigli. Credo che insomma abbia fatto tanto, insomma è stato, la sua supervisione ha fatto molto per la riuscita, cioè credo per il salto più che altro tecnico tra il primo e il secondo disco. Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Davide Buffoli, stiamo presentando il suo nuovo lavoro, si intitola Prices. Allora, per continuare a parlare, identificando prima la musica, direi di inserire un primo pezzo. Sì, esattamente, abbiamo scelto la traccia numero uno. Noi nella presentazione abbiamo scritto che è molto pettiana, nel senso positivo del termine, non so se sei d'accordo Davide. Positivissimo. Quindi da Tom Petty, quindi la West Coast rivista è rivissuta da Tom Petty, quindi abbastanza una West Coast abbastanza recente, no? La West Coast dei Birds, ma i Birds c'entrano sempre in questi discorsi, non so se sei d'accordo Davide. Sì, beh, allora, hanno dato quel suono particolare, hanno creato un sound proprio particolare, il jingle jangle. Certo, certamente. Esatto, dove che dato proprio da queste chitarre delle Rickenbacker che hanno, loro hanno sempre usato, cioè Roger McGinn ha sempre usato quella, credo, da quando ha iniziato a suonare. Allora Davide, chitarra, scusami, sì, visto che il titolo è lungo, te lo facciamo dire a te e poi ci ascoltiamo il pezzo. Noi adesso in scaletta, quando facciamo le serate, io lo scrivo tutto, però per dare il via e farci capire su che brano fare, dico Sleeping, facciamo Sleeping, così gli altri, perché è troppo lungo effettivamente, quindi comunque è Sleeping When the Birds Are Singing. Blu Radio Sera. See time still running wild, too wild for me. This is your world, but not the only one I know. When your day starts, the silence calls me. Oh, sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato questo primo pezzo di Davide Buffoli da Prices. Questa canzone si intitola Sleeping When the Birds Are Singing, che mi ricorda anche un quadretto di quando sei in campagna con il balcone semichiuso e senti in lontananza il cinguettio degli uccellini. È proprio questo che si intendeva, Simone. Scusa, Davide? Pronto? Pronto Davide? Sì, ci sono. Ah, okay, ci sei, okay. Scusami. ci sono qui. Mi sento benissimo, tra l'altro, non c'è un'interferenza che una. Mamma mia. Bene, benissimo, bene, molto bene. E comunque, l'immagine che hai dato è bellissima, mi è piaciuta. Bene, ti parlavo prima del fatto che mi piace quando mi raccontano che cosa hanno provato le persone. Sì. No, ma così vedendo il titolo lo accostavo molto a questa atmosfera. Io è nato più che altro, io parlo un pochino della più che altro invece della notte, del vivere la notte, perché comunque è un momento dove non ci si scontra con il via vai del giorno, il traffico, lo stress, è un momento dove si riesce a stare un po' soli, ma proprio soli con se stessi, non soli poi solo fisicamente, ma a ragionare un po' su, e mi capita anche spesso, spesso faccio orari un po' così e vengo criticato spesso, soprattutto dalla mia ragazza che ogni tanto mi dice vai a letto presto, vai sì. A letto peggio di mia mamma. E quindi il fatto di accorgersi che si arriva tardi, ci si mette a dormire, però i pensieri girano, si fa fatica a dormire, si iniziano a sentire i camion che passano. Sì, e poi al mattino la chiami e dici, sai che ho scritto una canzone stanotte? Esatto, è così? E inizi a vedere che fai fatica anche a prendere sonno perché inizia a filtrare la luce e senti un po' i primi uccellini, insomma, che certo. A proposito di questo pezzo... Mi senti Davide? Sì. A proposito di questo pezzo, forse Flavio non lo sa, però dobbiamo dirlo, è stato grazie alla tenacia di Alberto Plisco, il nostro produttore e direttore artistico. Ah sì, dobbiamo salutarlo. Che è stato, certo. Si è innamorato di questo pezzo e ha fatto innamorare anche me, quindi abbiamo deciso di iniziare. Salutiamo Alberto, che è stato lui con la sua tenacia che stasera abbiamo ospite al telefono, Davide. È un pezzo bellissimo che ci ha fatto portare in quel suono della Rickenbacker, che è un suono meraviglioso, chiaramente. E purtroppo io non sono riuscito a recuperare. Tra l'altro, non ho ancora ringraziato, le approfitto qui in diretta, se qualcuno sta ascoltando, per tutti i ragazzi miei, tra i miei allievi di chitarra o altri musicisti che hanno contribuito prestandomi il loro materiale, perché non avrei mai potuto permettermi, per esempio, di usare, come in questo caso, sul finale. Non c'è una Rickenbacker, ma una chitarra che un po' ci assomiglia. Ti assomiglia. È la Gretsch. Okay. È un gran chitarrone, per cui sono stato fortunato, ho avuto questa fortuna. Ecco. Non ho ancora per ora non mi hanno cercato per sponsorizzare chitarre, ma ho i miei endorser personali, insomma, che mi forniscono. E quindi sì. La possibilità di andare avanti. Dopo 8 anni dopo il primo disco, Davide, è stato un percorso lungo. Sì, infatti... Ma io nel frattempo credo che avrei potuto registrare qualcosa, perché comunque nel frattempo gli studi, qualche contatto per poter registrare, qualche lo studio lo trovi, ecco, insomma. Però non avevo ancora un certo tipo di canzoni che sentivo valide. Nel frattempo ho scritto e ho ancora qualcosa da parte, però sentivo proprio bisogno di trovare un posto giusto con una persona giusta, nel senso una persona che mi conoscesse e con la quale ci si potesse anche scontrare, no? Perché comunque registrare un disco è sempre, ci sono spesso, soprattutto se la persona è creativa, in questo caso Stefano, ragazzo con cui ho registrato, ci si scontra, insomma, le opinioni possono essere diverse, però tutto giunge poi a una conclusione creativa, ecco, insomma, e lui deve conoscere le tue esigenze, tu devi cercare, insomma, di scendere a qualche compromesso. Certo, 8 anni, perché tu giustamente hai scritto che un disco è per sempre, una volta che l'hai pubblicato non puoi cambiarlo, resterà com'è, quindi deve essere fatto come si deve, praticamente come tu credi che come tu vuoi che sia fatto, cerchi certo. di arrivarci, insomma, a quello che desideri. Poi chiaramente quando entri in studio non è mai così, arrivi sempre, sì. esci sempre che la canzone è diversa da come la intendevi, quasi sempre. Certo. A volte l'avvicinarsi va già bene, insomma. Poi non è detto che sia uscita peggio o meglio. Poi nel comodino vicino al tuo letto invece c'è sempre la canzone originale, voglio dire, quella che è stata poi stravolta, coinvolta, sì, come poi dire, sono maturate tanto, sì. le ho girate, ho dovuto sistemare parecchio, controllare bene anche i testi, perché sono italiano e cantare sì. in inglese è sempre un po', insomma, si rischia sempre, si ha sempre la paura, almeno io, di scrivere stupidate, insomma, sia dal punto di vista grammaticale e poi comunque anche di concetto. Certo. Però ho avuto anche qui la fortuna di conoscere un amico che è sposato con un'americana, quindi mi ha aiutato lei e mi sono fidato, perché più di così. Perfetto. Di così. Quindi assolutamente sì. Sì, ho avuto, ecco, diversi collaboratori più che musicisti, perché il lato musicale proprio l'ho voluto curare io. Ho avuto proprio aiuti esterni in questo senso. Ecco, mio fratello, per esempio, ha curato la copertina per la prima volta, mentre il primo lavoro l'avevo curato un'altra ragazza. Stavolta è stato, da quel punto di vista lì, molto gestito in famiglia, insomma. Mio fratello mi ha dato una grossa mano, ecco, da questo punto di vista, perché certo. ci costano. E se non hai, ci vuole budget per fare i dischi in un certo modo. Assolutamente sì, assolutamente sì. È proprio fatica, non solamente di fisico, ma anche di portafoglio, molte volte, sì. per fare quello questa aiuta, cosa. Non fa... Se non ci sono le canzoni, non ci sono, ma quello aiuta. Tra altre cose, nel centro della copertina c'è un tipo, un tra moglie e marito, no? Vedo qua un paio di foto che raffigurano a letto con una chitarra nel mezzo. Cioè esatto. Una ragazza a destra, tanto... però si indica quella che è la tua preferenza. Non la diciamo. Non... Ecco, esatto, qua io salterei. Certo. Oltre, no? Vabbè, allora Davide, continuiamo con l'ascolto del tuo CD, un altro pezzo abbiamo detto che presentiamo, quella che è la canzone che dà anche il titolo all'album, e poi torneremo a commentarla insieme. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. It's someday another journey to face, but I got nothing in my bags. I've got a girl, got some music and love, but there's a ghost in my mind. All is coming around again. Please touch me, try to feel me inside, 'cause I'm falling down again. I'm falling down again at 5:04 p.m. You were scared of my dark side. I cannot make you smile, and I don't know why. I don't know why. I don't know why. Please wait for me. Wait for me tonight, 'cause I'm crawling. Yeah. bene tu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta a commentare un altro pezzo dall'album Prices di Davide Buffoli. Abbiamo ascoltato proprio la title track e abbiamo con noi proprio Davide per commentarla insieme. Questa era 5 4 PM. Scusaci, abbiamo sbagliato traccia? No problem, la mettiamo dopo, dai. La mettiamo dopo. Sì. È giusto per essere... Era 5 4 PM questa, che ho sentito. La mettiamo dopo. Non c'è problema. Va bene. Ok, benissimo. Abbiamo scritto nella recensione... questo non è San Francisco, ma è Varese con Davide Buffoli, ma non cambia mica tanto niente. Mica tanto, Davide, secondo me. Se quell'amore westcostiano è presente, ma è un amore bello, un amore fatto da te, musicalmente parlando. Sì, io non sono cresciuto con la musica italiana. Mio padre ha sempre ascoltato CD, cioè CD, dischi. Dischi, una volta c'erano i dischi. CD. Qualcuno ha già le chiavette, io per fortuna sono ancora i CD. Ecco, esatto. Sì, i vinili, li comprava da giovane, insomma per casa è sempre suonata quella musica, quella che avete citato prima, comunque i Birds, tra l'altro erano tra i suoi preferiti, comunque poi i classici, c'erano i Rolling Stones, i Beatles, certo. Che giravano, Ray Cooder, insomma mio padre si ricorda anche che per farmi addormentare, che... è positivo, nel senso che non è che utilizzava spesso un disco di Ray Cooder, però un bel dormire con il disco, esatto, di Ray Cooder, secondo me rilassava, perché era jazz, era comunque il disco jazz di Ray Cooder. Sì, me lo ricordo, no? Mi ricordo un disco molto interessante, diciamo, con quello pam aveva trovato il sistema per farti addomentare, esatto. Subito sono nato e cresciuto con quel mi ricordo quando andavamo in vacanza a macchina, c'erano tutte le cassette che non è mai girava anche qualche cantautore italiano, ricordo insomma De André, poi c'era De Gregori, insomma i classici che certo. Mi piacevano, però ecco proprio la classica melodia italiana, il classico tra virgolette bel cantato italiano non mi ha mai poi influenzato, non ho mai, ho sempre ascoltato, io sono stato molto influenzato dal rock, tra virgolette il revival rock americano degli anni 90. Mi ricordo insomma quando io avevo 14 anni e ancora giravano su MTV diversi gruppi validissimi, anche piacevano molto i Counting Crows, Jim Blossom. Jim Blossom, soprattutto Jim Blossom, c'è un certo legame, sei molto affezionato di Jim Blossom. Sì, sono affezionato più, e non li ascolto da tanto, anche se è uscito da poco il disco, sì. L'ho preso, perché comunque appunto sono anche tanti ricordi, sono stati un gruppo al quale ero affezionatissimo proprio quando avevo 16 anni, così sono stati un po' allo stacco, perché io sono cresciuto, ho imparato a suonare la chitarra molto sul Southern Rock, mi piacevano tanto i chitarristi. Quindi Allman Brothers. Sì. Poi insomma ho iniziato un po' a dedicarmi alla scrittura, ho iniziato a cantare, canticchiare, così ho studiato un po' di pianoforte io, quindi... ho iniziato un po' a seguire più le canzoni, cioè il formato canzone mi ha sempre affascinato di più. Tanto per intenderci, uno dei, secondo me, dei re del formato canzone è John Fogerty, qui Creedence. Sì, 3 minuti, punto e basta. Hai detto una cosa giustissima. Quindi ho iniziato, loro mi piacevano un sacco, poi erano freschi, nuovi, c'era quel loro singolo che andava tantissimo, che era Follow You Down, che... veramente bello e niente da lì, quindi poi ho iniziato anche ad andare un po' a ritroso, ho ascoltato tutti quelli che, perché poi fai delle ricerche insomma su internet, così ti dà questa libertà, sono andato a vedere chi li aveva influenzati e ho scoperto gruppi come Big Star, Alex Chilton, esatto, esattamente quel filone lì e niente, poi chiaramente ho ascoltato parecchio, mi piace ultimamente, sto ascoltando molto country rock, pop, mi piace molto Keith Urban, capito, e Rascal Flatts, gruppi così insomma. Ma tu che hai suonato con Elliot Murphy, che è un grandissimo musicista, Elliot Murphy, che sensazione hai avuto? Un flash, se ti ricordi? Io suonavo in un gruppo di Varese e ho suonato con loro, avevamo gemmato insieme, è bella, una bella sensazione. però comunque non lo conoscevo molto artisticamente, ero già, io avevo 20 anni, 21 anni, per cui non avevo, mi avevano passato un po' di dischi così, per cui probabilmente è stata una bellissima sensazione, probabilmente chi era cresciuto con la sua musica, trovarsi lì in quel momento era, sarebbe stato, forse l'avrebbe sentito di più, come a me è piaciuto molto, è stata una persona poi gentilissima. Però per esempio ho provato più effetto dal mio punto di vista a suonare, aprire il concerto del cantante degli Spin Doctors, per dire. Ecco, vedi, vedi, è un'altra cosa, per i legami, credo, non so, per il fatto che sia musica generazionale, sì. Quindi l'ho sentito di più questo, adesso ho dei bei ricordi, però non li riesco a sentire vivi, insomma, se mi chiedi proprio la sensazione. Davide, vogliamo ricordare anche dove i nostri ascoltatori possono ottenere maggiori informazioni riguardo, riguardo il tuo ultimo lavoro, oltre che alla tua vita artistica? Sì, beh, possono visitare il sito davidebuffoli.com, che è da poco online, da lì poi ci sono i vari link per andare su Facebook, chi ce l'ha, perché oggi so che funziona, vanno fa molto, ce l'hanno quasi tutto, quasi tutti, quindi certo. Da lì per ascoltare, poi per acquistarlo... attualmente può acquistarlo direttamente da me, manda una mail oppure direttamente c'è sul sito la possibilità di chi ha il conto PayPal di poter pagare così e acquistarlo, poi spedisco con posta prioritaria, insomma, oppure c'è, per ora c'è qua da in qualche negozio qui nelle mie zone e spero a breve di uscire, insomma, lo metterò anche per il download digitale, come download digitale penso sarà iTunes, insomma. Bene, io ho contato per più di 10 volte da 1 a 4 per non sbagliare ancora traccia. Okay, prometto che adesso... Non è un problema, basta poi dirlo. Ecco, sì, no, giustissimo. Anche perché sarebbe stata quella canzone che abbiamo ascoltato prima, che ricordiamo essere il... 5-4 PM. Doveva essere ascoltata adesso. Quindi ma... abbiamo invertito un po' la tabella. Adesso ascoltiamo appunto Prices. Ma poi farò. E poi farò assolutamente rock. Assolutamente, grazie che ci hai salvato in corner in questo caso. Va benissimo, allora l'ascoltiamo, poi torniamo a commentarla insieme qui su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. And This is the price we must pay for so long. The price we must pay when we are alone. The price we must pay for so long. The price we must pay when we're not alone. It's just a whisper. It's just a whisper. It's just a whisper. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta, abbiamo ascoltato questo pezzo, si intitola Prices, inizia così: dimmi che prezzo devo pagare per vivere. Dice così Davide? All'inizio proprio della canzone. Ma quindi è un brano che nasce un po' negativo, perché dice ma io devo pagare per vivere. Ma credo sia dei punti di vista, anche lì ci sono dei punti di vista. Io semplicemente è nata in un momento in cui insomma non filava proprio tutto lì. È per quello. Sì, certo. Sì, esatto, è nato così. Per cui, però ecco, più che altro mi sono reso conto, poi il concetto è anche semplice, alla fine da spiegare, che tu credi che insomma anche le cose che dovrebbero essere gratis, quindi comunque anche certi sentimenti, comunque si pagano, hanno comunque un prezzo, che poi non sia in denaro, comunque non si possa pagare così o sdebitarsi in quel modo, ma c'è sempre, per qualsiasi azione che si fa, soprattutto diventando grandi, diventando adulti, perché si iniziano ad avere le cosiddette responsabilità, c'è un prezzo per tutto. Io dico, adesso mi viene sempre, ripeto, difficile spiegare le canzoni, però che tu sia da solo, viva da solo, che tu abbia una storia sentimentale con una ragazza, un ragazzo, insomma, qualsiasi cosa tu decida di fare, di muoverti, è sempre un prezzo, insomma, qualsiasi tua mossa, ecco. Non c'è mai un modo per trovare un equilibrio nelle cose, è difficilissimo, insomma, c'è chi crede di averlo trovato a volte, ma secondo me è difficile, insomma, bisogna trovare il non equilibrio che si preferisce, ecco. Davide, anche se il testo era un po' malinconico, un po' negativo, come giustamente ha detto Flavio all'inizio, musicalmente è un grande pezzo, un pezzo molto accattivante. Possiamo chiamarlo anche un singolo potenziale, anche se adesso i singoli non esistono più. Ma sinceramente adesso come minutaggio non è proprio da singolo. Sì, lo so, però sai, American Pie durava 9 minuti e 18, quindi... Però, insomma, ho sentito spesso, ho avuto, quando poi le prime copie che ho venduto, dei ragazzi, anche parlo di 18 anni, sì, mi è piaciuto molto questo. Ovviamente mi aspettavo piacessero altri a loro, insomma, da quella generazione, invece Prices ha colpito, va bene. A me fa piacere, poi ognuno, guarda, ti assicuro, vi dice proprio la sua. C'è gente che, alcuni mi hanno dato il loro parere, secondo loro i pezzi finali andavano messi prima perché piacevano di più quelli, altri mi dicevano no, van bene quelli che hai messo per prima. Poi ognuno dice la sua, quello è il lato soggettivo e bello della musica. Certo, certo. Possiamo dire la nostra, va bene così, come hai fatto, appunto. Così come la scaletta è stata fatta da te. Visto che il disco è per la vita, voglio dire, è per sempre, quindi... Io, uno non può, secondo me non bisogna mai, io non lo farò mai, ma credo non si possa mai... fare un disco per cercare di piacere, di farlo piacere. Quello che ho cercato di fare tra il primo e il secondo, che credo sia il dovere mio, e meno personalmente me come musicista, per quello che faccio, è di cercare di migliorarlo sotto gli aspetti più tecnici, più di mestiere, perché come si dice, l'ispirazione, quelle cose lì non le puoi migliorare, arrivano o non arrivano. Certo, però dai momenti. Sì, però Davide, non aspettiamo altri 8 anni adesso, no? No, spero di no, spero neanch'io. Adesso sei ben lanciato, voglio dire. Bisogna vedere come va, vedere come va questo, certo. Perché io ho riscontrato, nonostante... Io ho riscontrato diverse chiusure anche dal punto di vista di alcuni addetti ai lavori, cioè nel senso che parlano di musica e si occupano di musica, tra virgolette, di nicchia in Italia, ecco, perché comunque credo che sia un disco che mi fa piacere che voi l'abbiate apprezzato, però molto, forse più generazionale, più per i ragazzi della mia generazione, insomma, nati negli anni 70, così. Anche se non credo che ci sia, cioè, può andare bene per tutti, è quello che mi fa piacere, però è un po', a detta di molti, un po' pop, quindi questo lato che magari è, può piacere di più alle nuove generazioni, che per me, a me fa piacere, ecco. Però tanti l'hanno visto un po' come, insomma, non ho avuto molti spazi in certi ambiti, insomma, più di nicchia, ecco. Sarà anche pop, però a noi piace, al di là di tutto, quando piace, piace. Ma sì, ma perché è un po' abusato questo termine pop. È appunto, il termine appunto. Pop è popolare. Certo. Insomma, si può fare pop con le chitarre, si può fare pop... Cioè, il pop può essere, che è quello che non piace a me, che è quello di Britney Spears, e c'è il pop dei Jim Blossom. Sì, è chiaro, voglio dire, c'è pop però, e pop. Quindi... Però insomma, sì. Tanti turisti, quindi è un disco che sta un po' in mezzo qui in Italia, lo dico così, almeno io parlo perché ho avuto le prime opinioni, i primi riscontri, è in mezzo, non è un disco mainstream italiano, ecco. Però essendo un disco mainstream forse americano, perché ha un certo tipo di sonorità, non è neanche ben visto forse dal purista, ecco, tutto lì. Però bene. Va bene, insomma, fa piacere che voi vi siate interessati, vi è piaciuto. Vabbè, ma noi ci interessiamo sempre quando la musica proprio viene dal cuore, viene dagli artisti, noi vogliamo scavare fino in fondo e poi capire, visto, insomma, cosa esiste anche nel sottobosco musicale, quello non super sponsorizzato dalle varie major, ma quello che nasce così anche su varie conoscenze internet, e di questo torniamo a ringraziare anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ti ha scovato. Sì, poi no, è stato feeling prima sì, vista, ecco, vedi. Quando abbiamo saputo di essere tutti e due interi. Bene. Ecco per così. Allora, c'è un altro in regia che arriverà dopo. Non parliamo di calcio. No, va bene. Però, vabbè, ma no, ma lì non si parla di calcio. Quando uno è in crista non si parla di calcio. Certo, certo. Si farà vabbè. Una testa probabilmente. Certo. Anche perché in questo magari sulla musica andiamo d'accordo, ma magari dal punto di vista calcistico. Esatto. Ognuno ha la propria scarpetta. Fa parte della cultura italiana. Il calcio. Certo, certo. Se fosse data l'importanza che si dà al calcio alla musica, ciao. È vero. Allora, noi concludiamo questa magica intervista con Davide Bufoli presentando un altro pezzo, Maurizio. Sì, pezzo con il dobro, Davide, che è molto bello. Sweet Jenny Blue. Allora, l'ascoltiamo e noi salutiamo Davide Bufoli e lo ringraziamo per essere stato con noi qui in diretta su Blu Radio Sera. E ti aspettiamo qua, Davide, quando potrai, chiaramente. Ringrazio voi, certo, tantissimo, grazie. Bene, grazie Davide ancora. Ciao Davide, grazie. Tutti, ciao, grazie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Sera. Blu Radio Sera. Bella anche questa canzone, vero Maurizio? Molto bella. Sweet Jenny Blue. Esattamente, molto Amal Brothers, molto Southern Rock, ma molto molto bella, insomma. A me è piaciuta particolarmente. Benissimo, allora io vi saluto, tu Maurizio tu continui. Si continua fino alle 24, è già pronto Claudio Valente più Simone Chivilò. Ma era molto tempo che non vedevo Simone Chivilò. Claudio l'ho visto 2 anni fa, mi pare, sì. Anni circa. Sì. Ma Simone era un po' di tempo che non vedevo, sono molto contento di rivederlo qua. Questo assolutamente dal vivo. Ne approfitto per salutarli anch'io. Poi ciao, vi lascio con Agostino. E quindi vi auguro una buonissima serata. Allora mettiamo una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo appunto con Claudio Valente e la sua musica. Quindi non abbandonate le nostre frequenze, inutile dirlo questo. Assolutamente. Ecco. Blu Radio Sera. Svolta. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le